Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, in onda sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, il sabato alle 14, disponibile a partire da lunedì mattina sul nostro sito www.radiovanloon.info. Ben ritrovati in questo appuntamento, la nostra mezz'ora di storia che guarda al presente in questa settimana. Guarda al presente perché siamo nelle ultime battute di una campagna elettorale molto importante. Non è la nostra, ma è quella che si gioca dall'altra parte dell'oceano, nello scontro fra Joe Biden e Donald Trump. È un'elezione molto importante per gli Stati Uniti, ma come sempre è un'elezione importante per tutto il mondo, i cui esiti al momento non sappiamo, ma che proviamo a indagare perché ci permette di raccontare qualcosa della società americana. Per entrare all'interno della società e della storia americana, in questa puntata abbiamo deciso di prendere un genere letterario, un canale culturale che ci piace molto, che è quello del fumetto. Però entrando un po' più nello specifico, entrando nel mondo delle strips. Le strips sono un genere di fumetto molto popolare negli Stati Uniti, che in Europa non ha mai veramente sfondato, se non per delle strisce come quelle di Andy Cap, di Reg Smite, o le Stormtrooper di Bombi, ma è un genere che negli Stati Uniti è sempre andato forte. Tre vignette accompagnate da una battuta salace che compaiono sulle pagine dei quotidiani statunitensi. La più celebre e universalmente nota sono i Peanuts, naturalmente, il mondo di Snoopy e Charlie Brown, e Linus ideato da Charles Schulz, ma ce ne sono veramente tante tante altre. Il capostipite del mondo delle strips, delle strisce, è Pogo, un opossum antropomorfo che Walt Kelly, un disegnatore della Disney licenziato a seguito di uno sciopero, aveva creato nel 1941, che si dimostrò subito come un elemento veramente molto innovativo. Il fumetto, che nei quotidiani americani era presente come canale per parlare ai nuovi cittadini americani che facevano fatica con l'inglese, gli immigrati, era diventato un canale per raccontare la società americana, perché nel mondo di questo piccolo opossum di Pogo ci sono degli animali che hanno delle fattezze dei politici allora contemporanei e che non sono solo maschere, quindi dei comportamenti umani, ma raccontano qualcosa di più preciso. Dopo Pogo, questo fumetto del 1941, ne sono seguiti tanti altri. Citiamo Beetle Bailey, il pigro soldato di leva, ideato da Mort Walker nel 1950. Curioso il fatto che Walker aveva preso l'idea dalla sua esperienza di militare in servizio in un campo di prigionieri tedeschi italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Un'altra striscia è BC di John Hart. Ce ne sono tante, tante, che dagli anni 50 e 60 hanno proseguito fino ad oggi e che in Italia, a partire dagli anni 70, hanno iniziato a essere molto, molto apprezzate. Sono state portate le traduzioni di queste strips dalla rivista Linus, pubblicate dalla casa editrice Milano Libri e nella collana degli Oscar Mondadori. Perché negli anni 60... italiani, si veniva maturando un nuovo interesse nei confronti dell'America del 68, della nuova sinistra americana, e quei personaggi pian piano iniziarono a diventare familiari anche per il pubblico italiano. È proprio in quell'atmosfera che si colloca una delle strisce più note della stampa americana. Magari da noi lo è meno, però negli Stati Uniti è assolutamente molto nota, e la striscia è Doonesbury. L'autore è Gary Trudeau, che nella fine degli anni 60 era uno studente di Yale, che aveva iniziato a pubblicare sul giornalino dell'università delle vicende di un gruppo di ragazzi del college. Il protagonista era Michael Doonesbury, uno studente di provincia, orfano di padre, con una madre costretta a grandi sacrifici pur di farlo studiare, che arriva all'università con l'idea di far strage di cuori e di avere conquiste su conquiste. Secondo un calcolatore si trova come compagno di stanza BD, il capitano della squadra di football dell'università, che sta studiando esclusivamente per meriti sportivi. Le avventure di Doonesbury iniziano nel 1970 e proseguono ancora ad oggi. È molto interessante la striscia, adesso cercheremo di entrarci meglio, perché i personaggi, noi abbiamo citato intanto Mike Doonesbury e BD, ma i personaggi sono altri, li vedremo, raccontano le trasformazioni della società statunitense contemporanea. Perché questi personaggi incontrano dei politici e mano a mano fanno la satira di questi politici, ma allo stesso tempo cambiano e crescono, come cambia la società americana. Prima del pezzo musicale avevamo iniziato a parlare di questa striscia Dansbury che abbiamo eletto a canale per entrare nella società americana e quindi capire gli Stati Uniti alle porte di questo voto molto importante per le presidenziali 2020. Avevamo detto che ci sono dei personaggi che cambiano, però iniziamo a conoscerli meglio. Abbiamo detto che Mike Dansbury è un ragazzo che ha iniziato a studiare grazie ai grandi sacrifici della madre, che lo immagina ingegnere alla General Motors, e Mike si confronta e si scontra nelle strisce degli anni 70 con il mondo della nuova sinistra americana, questo mondo dell'università americana che sta protestando. Incontra Pantere Nere, incontra il movimento studentesco, incontra le femministe con le quali naturalmente cerca degli approcci naturalmente fallimentari, incontra la guerra in Vietnam. Mike cambierà nell'arco degli anni e quando finirà l'università e si trasferirà in una comune a Walden insieme ad altri personaggi che vi andremo a presentare, ma finita quell'esperienza dovrà cercare un lavoro e uno dei primi incarichi è nella campagna elettorale del repubblicano Ronald Reagan e lui si trova nella posizione di dover inventare uno spot che convinca i neri a votare per un candidato reazionario e conservatore. Negli anni Mike cambierà ancora, lui che viene comunque da una certa simpatia nei confronti del movimento studentesco diventerà repubblicano perché inizierà a pretendere legge d'ordine e si ritroverà nel 2008 a perdere tutto. Perché? Perché c'è la crisi economica. Lui, un uomo in crisi, un imprenditore in crisi nel 2008, di simpatie repubblicane, si ritroverà ad avere una figlia, Alex, che diventerà un'attivista pacifista democratica. Un altro personaggio che vale la pena citare è Mark Slaymaker. Per chi dovesse leggere Dansbury oggi, Mark è un pacato conduttore radiofonico che sta facendo i conti con la rielaborazione del lutto del padre. Però scoprendo questo personaggio nelle strisce degli anni 70 lo ritroviamo capellone come capo del movimento studentesco, figura fissa nell'ufficio del rettore che occupa da solo, contestatore della guerra che ha il padre, che oggi sappiamo essere morto, repubblicano, e che fa di tutto per farlo cambiare, non riuscendoci, lo disprezza, e a un certo punto sposta la sua camera anche in garage. I due personaggi si riavvicineranno solamente quando il padre starà per morire, e Mark dovrà cercare qualcuno che possa presenziare al funerale del genitore. Il personaggio di Mark è molto interessante perché ci racconta proprio il grande cambiamento della striscia Dansbury, ma i grandi cambiamenti della società americana, perché nei primi anni 90 sarà uno dei primi personaggi a fumetti a fare coming out, dichiarando la sua omosessualità. Un altro personaggio che vale la pena citare è Joanny Caucus, uno dei personaggi più noti negli Stati Uniti, un personaggio che fece scandalo quasi quanto Mark Slaymaker, perché una notte farà sesso. Nella vignette si alluderà, più che far vedere, non è una striscia erotica, però si alluderà a una notte di sesso, e questo desterà molto scalpore. Joanny Caucus è un avvocato di grande successo, ma la incontriamo nella prima volta nelle vesti di una casalinga che è in fuga dalla routine e che decide di scappare con Mark e Mike, che stanno facendo un giro per gli USA in sidecar. Ci sono due personaggi altri che vale la pena raccontare, che sono BD, il giocatore di football di cui vi abbiamo detto, e la sua fidanzata Bupsy, ma ve ne parliamo dopo la canzone. Ecco perché, per raccontare Dansbury e per raccontare la società americana, ci siamo concentrati su BD e la sua fidanzata Bupsy. Perché sono la coppia per eccellenza. Uno sportivo, una cheerleader, non particolarmente brillanti nessuno dei due, però vivono veramente sulla propria pelle i grandi cambiamenti degli Stati Uniti. BD naturalmente sarà volontario nella guerra nel Vietnam. Perché? Perché voleva andare ad uccidere i comunisti, nulla di più. E Bupsy lo saluta mentre va nel Vietnam con i suoi versetti. All'epoca, negli anni 70, parlava quasi solo per versi, facendo imbestialire le varie femministe che comparivano nella striscia. Ma BD, tornato dal Vietnam, farà molta fatica a reinserirsi e inizierà ad attaccarsi alla bottiglia. E l'unica cosa che sarà in grado di fare, crescendo, sarà quella di fare l'allenatore di una squadra di football e di tornare in guerra ad ogni appuntamento. Bupsy parallelamente farà la modella, l'attrice, poserà nuda su Penthouse, E quando BD partirà per l'Iraq, quindi per l'ultima guerra che farà, prenderà il suo ruolo di coach della squadra di football del college. È interessante questo passaggio dei primi anni 2000 della guerra in Iraq, perché succedono due elementi chiave che ribaltano la storia quasi. Bubsy, da emblema della donna oggetto, si farà portatrice di un messaggio di grande cambiamento all'interno del mondo del football, perché deciderà di sciogliere la squadra per degli scandali di natura sessuale, per delle violenze sessuali praticate dai suoi giocatori. E BD, che è un personaggio che si riconosce immediatamente perché in tutte le vignette ha sempre il caschetto da giocatore di football, che cambia quando va in guerra in un elmetto. In Iraq subirà un attentato, perderà una gamba e per la prima volta lo troveremo senza casco. Nelle vignette successive BD sarà con i suoi capelli e sarà un invalido di guerra che farà veramente molta fatica ad inserirsi. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Abbiamo parlato dei personaggi, ma dobbiamo ricordarci sempre che Dansbury è una striscia di satira politica e come tale racconta il mondo della politica. È interessante, guardando le strisce nel loro sviluppo, vedere come cambiano certi personaggi. In Attenti al mattone, uno dei primi volumi editi in Italia con le strips di Dansbury, compare John Kerry. John Kerry, noi della generazione dei nati negli 80, l'abbiamo conosciuto come il grande sconfitto di fronte a George Bush nelle elezioni degli anni 2000. e poi l'abbiamo conosciuto come segretario di Stato dell'era Obama. Ma John Kerry è diventato noto al pubblico statunitense come il reduce pluridecorato che si dichiarava contrario alla guerra dopo l'esperienza in Vietnam. E quindi nella striscia di DVD di Attenti al mattone lo troviamo giovanissimo. È interessante però vedere come vengono raffigurati i presidenti. Trudeau ha questa bella caratteristica di non rappresentare veramente i presidenti, ma di utilizzare un segno che li raffiguri. Diciamo che George Bush padre veniva raffigurato con una piuma, George Bush figlio, George W. Bush, il presidente dell'11 settembre e delle guerre contro il terrorismo in Iraq e in Afghanistan, verrà raffigurato come un asterisco per rappresentare la sua inconsistenza, che però viene coperto da un mantello e un elmo da centurione romano, per questa sua idea della guerra dell'Occidente contro l'Oriente, un elmo sempre più spiumazzato, ecco, diciamo. Ma l'altro elemento che è interessante, e qua entriamo veramente nel presente, è il fatto che uno dei personaggi di questi politici del sistema dei mass media americano che viene tirato in ballo è naturalmente Donald Trump. Donald Trump compariva nelle strisce di Dansbury ben prima della sua elezione, perché era un personaggio di successo, e Trudeau nel 1987 fece una cosa particolare. Riportiamo le parole dell'autore. Mi piacerebbe dire che quando si è candidato per davvero io ero sicuro della sua vittoria, però non è così. Nel 1987 comprò spazi pubblicitari sui giornali per avvertire i lettori del declino dell'America con un lessico pressoché identico a quello che ha usato per la sua campagna nel 2016. E fu divertente immaginarlo candidato per davvero. Però non avevo un'idea delle sue chance alle primarie. La sua ignoranza, la sua inesperienza, il suo narcisismo non contavano nulla. Fino alla fine ammetto che pensavo che avrebbero finito per avere un peso sull'esito delle elezioni. Fortunatamente non sono pagato per fare delle previsioni. Diciamo che Trudeau nel 1987 aveva immaginato una candidatura di Donald Trump e quasi ci aveva azzeccato. Quello che è interessante dire è che Trudeau, che naturalmente dice che non è pagato per fare delle previsioni, è che secondo lui Donald Trump nel 1987 aveva deciso di candidarsi per pubblicizzare il suo marchio, il marchio Trump. Oggi che abbiamo avuto già un mandato del presidente Trump, possiamo dire che sia la stessa cosa? Con questa domanda retorica ma non troppo vi lascio. Buon proseguimento di giornata a tutti e a tutti da Frey. Ciao!